Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica. Quanti ci ascoltano, abbiamo iniziato con Queste notte della Tempesta, il quarto movimento della Sinfonia Pastorale di Beethoven. E chiediamo al nostro ospite, prima di presentarlo, perché ha scelto questo brano, che cosa le ricorda? Innanzitutto la Sesta Pastorale, penso sempre alle piacevoli sensazioni di un uomo che si reca in campagna. Peraltro anche in campagna ci sono diversi momenti, c'è l'alba, il pomeriggio, il tramonto, e ci sono anche diversi momenti nei quali al bel tempo si sostituisce il temporale, e stiamo vivendo effettivamente nella nostra vita economica, sociale, un momento di temporale. E potremmo dire che appunto il momento di temporale è un po' quello che stanno vivendo i mercati finanziari, le borse valori in questo momento. È esattamente il campo in cui io lavoro da oltre 50 anni. Il 4 aprile scorso ho proprio valicato la boa dei 50 anni e devo dire che ho visto in questo lungo periodo della vita diversi periodi anche lunghi molto negativi, periodi lunghi anche importanti di positivi. Certamente oggi la nostra situazione non è paragonabile a quella del passato, perché il nostro mercato, l'Italia, sono in un contesto completamente diverso da quello degli anni 70-80, siamo inseriti nell'Europa, abbiamo una moneta comune e quindi ci troviamo in un contesto che possiamo definire completamente diverso. Ecco, lo vedremo, adesso scopriamo le carte, molti di voi l'avranno già capito. Siamo con Ettore Fumagalli, attualmente consigliere del private banking del gruppo Santander, ma una vita passata all'interno della Borsa Valori, è stato presidente del comitato direttivo degli agenti di cambio, presidente della Federazione delle Borse Europee. È entrato in borsa quando la borsa era un luogo fisico, quando la borsa era... In che anno è entrato per la prima volta nella vera piazza affari? Io sono entrato figlio d'arte, dato che mio padre è stato anche lui agente di cambio e presidente della borsa. Sono entrato il 4 aprile 1961 e era successivo quel periodo ad un momento di grande rialzo, gli anni, alla fine degli anni 50 e soprattutto il 1960, quando la lira si era guadagnata l'Oscar. Erano gli anni del miracolo economico. Ecco, cosa ricorda di quella che era il Salone delle Grida, poi? Era chiamato così, era veramente un Salone delle Grida. Era veramente un Salone delle Grida, ma soprattutto per il fatto che per poter fare gli affari era necessario l'incontro fisico degli intermediari. Un incontro che veniva fatto per conto dei committenti nel nome degli intermediari che non avevano la possibilità di operare per conto proprio. Le cose oggi sono cambiate completamente. Ciò che ha fatto cambiare i mercati, ha aperto le barriere, ha aperto i confini, è stato l'utilizzo dei computer. Infatti, nei miei primi anni di esperienza, immediatamente, allora essendo giovane, mi ero interessato dell'utilizzo dei computer. Allora non c'erano i personal, c'erano solamente, certo, i grandi mainframe. Mi sono reso conto che il loro utilizzo avrebbe cambiato completamente il mercato. Devo dire che l'essere stato un po' un precursore mi ha consentito oggi di essere stato per lungo tempo un survival del cambiamento, perché con il 1991, la sparizione del mercato gridato, i mercati telematici, eccetera, il vecchio mondo è completamente scomparso e con esso coloro che ci operavano. Quindi lei ha un po' di nostalgia del Salone delle Grida, ma solo perché a quel tempo era lei e un po' tutti eravamo più giovani. È una nostalgia forse legata alla gioventù, ma io sono sempre stato abituato, forse per educazione familiare, a guardare al futuro, perché l'esperienza del passato deve essere utile per affrontare il futuro, ma guardare indietro sarebbe come fermare il vento con le mani, non è utile. E quindi l'organizzazione del mercato è legata all'utilizzo di questi nuovi strumenti e ha fatto sì che i mercati diventassero un fatto integrato non a livello nazionale ma a livello internazionale. Ricordo che fino al 1991 ci stavano esattamente 10 piazze in Italia che comprendevano le storiche città degli stati preunitari, da Torino fino a Palermo, da Napoli fino a Venezia. Ognuno aveva la sua borsa valori. Certamente. Poi, voglio dire, già a quei tempi si era concentrato tutto il 90% sulla piazza di Milano e poi con l'utilizzo dei computer praticamente è sparita completamente ogni direi limitazione di carattere territoriale. C'è stato tuttavia qualche tentativo di resistenza all'ingresso delle nuove tecnologie? Assolutamente sì, e io devo dire che quando parlavo ai miei colleghi nella mia responsabilità di presidente e avendo visto praticamente tutti i mercati del mondo, io dicevo attenzione, perché se gli affari si spostano su altre piattaforme e voi restate dove siete, correte il rischio di non vedere e di non fare più gli affari. E purtroppo molti non l'hanno capito, molti hanno ritenuto che il mercato telematico fosse qualche cosa che a loro non interessava e c'è stato persino qualcuno che ha detto io preferisco, sono nato nel mercato mistico artigianale, non desidero ripiazzarmi nel mercato telematico. Apriamo una parentesi, poi torniamo sul mercato finanziario. Se non avesse fatto l'agente di cambio, cosa avrebbe voluto fare? Guardi, quando ero giovane io direi avevo alcune idee, avrei voluto fare o il medico, cioè lo studio soprattutto dei problemi della vita, ma avevo timore allora della anatomia. Oppure avrei voluto fare il pilota dell'aeronautica militare o anche l'architetto. Per fare il pilota sono stato dissuaso in un colloquio veramente duro con mio padre e per quanto riguarda invece l'architettura avevo paura di non avere delle idee. Invece ho capito nel tempo che avrei potuto fare benissimo anche l'architetto. Ecco, ma fare l'agente di cambio cosa ha voluto dire? È un po' come fare il medico poi in fondo, perché deve curare non tanto le malattie quanto curare i capitali, curare i soldi, cercare di trovare le soluzioni in cui ci siano delle condizioni le più sane possibili per l'economia. Ecco, effettivamente devo dire che nella mia esperienza io ho avuto diversi periodi nella mia vita professionale, perché ho anche fatto il manager nell'ambito del gruppo del Banco di Napoli, dove ho creato l'asset management e quindi ho fatto veramente il direttore generale, l'amministratore delegato, oltre che fare l'agente di cambio e quindi consigliare i clienti. La mia esperienza è molto ampia in questa materia e soprattutto ho imparato la prudenza, affrontare i problemi con molta prudenza e direi cercare soprattutto di servire il cliente al di là degli interessi, sia quando ero come professionista agente di cambio miei, sia quando ho svolto attività di manager nell'interesse del gruppo bancario, di mettere davanti sempre l'interesse del cliente. E quando il cliente è soddisfatto, finisce che anche l'ente per cui lavori, banca, eccetera, è soddisfatta. Ecco, lei quando sente parlare di speculazione, lei che vive all'interno, che ha vissuto all'interno dei mercati finanziari, che cosa le fa venire in mente? Beh, speculazione vuole dire semplicemente essere capace di guardare nel futuro, quindi in un certo senso è un'accezione di carattere positiva. Purtroppo molte volte quando si parla di speculazione si pensa a qualche cosa di carattere negativo, invece svolge una funzione. Anche perché direi non è possibile semplicemente mantenere in portafoglio determinati titoli, ma bisogna essere capaci di adeguarsi un pochettino al cambiamento delle condizioni. Quindi speculare in senso positivo è un'operazione assolutamente importante e direi utile. Quando diventa un fatto invece patologico, come nei momenti che stiamo vivendo, diventa assolutamente negativo. Ecco, un'ultima domanda in questa prima parte a Ettore Fumagalli. Comunque nella sua esperienza, qualche speculatore in senso stretto, cioè qualche persona che ha cercato di guardare un po' troppo al di là e di fare degli affari strettamente finanziari, comunque ce n'è stata? Certamente, ma le dico anche una cosa che si diceva in borsa e che comunque si dice negli ambienti finanziari, che la borsa i denari li presta speculando e li vuole indietro con gli interessi. Ne ho visti tanti che hanno perduto tutto quello che avevano guadagnato. Incontri. Buongiorno, buon pomeriggio ancora e buona domenica. Riprendiamo il nostro incontro con Ettore Fumagalli, consigliere del Private Banking del Santander, per lunghi anni il comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano, presidente della Commissione della Borsa della Comunità Europea. Abbiamo ripreso ancora con la pastorale di Beethoven, con il motivo che viene dopo quello del temporale con cui abbiamo aperto la prima parte, quando torna un po' il sereno. Ecco, è un po' una metafora di quanto avviene in borsa. Siamo all'interno ancora di un temporale in questo periodo. Quanti ne ha visti di temporali nei suoi 40 o 50 anni di esperienza di borsa? Beh, tanti. Io questa mattina stavo proprio facendo vedere a dei colleghi che nel periodo dal 1962 fino al 1977, sembra incredibile, il mercato è sempre continuamente sceso con alcuni fenomeni di rialzo. Quindi voglio dire, la musica naturalmente ricordava che dopo il brutto viene il bello, dopo il temporale viene il sereno, e anche questa volta, voglio dire, pur trovandoci in una condizione estremamente delicata, sono assolutamente convinto che il sereno ritornerà. Ci vorrà molto tempo. Certo, però questo è un temporale particolarmente forte, che è magari reso più intenso anche dal fatto che la borsa, lo stesso mercato finanziario, ma è un mercato globale. Le borse si muovono all'unisono. Ecco, non pensiamo più noi alla borsa di Milano. Noi dobbiamo sempre guardare a quella che è un po' la bussola di tutte le borse, che è New York. Molti dei mali dell'Europa purtroppo vengono anche da là. L'attacco all'euro è estremamente chiaro. L'Europa purtroppo non ha una politica comune, sembra di vedere un deficit di leadership anche politica a livello domestico, a livello europeo e a livello anche americano. Purtroppo la necessità di fare una politica sociale, economica e fiscale comune è imposta dal fatto di avere una moneta comune. Non ho nessun timore che ci sia la possibilità di una distruzione dell'euro. Certamente agli americani potrebbe fare molto comodo, agli Stati Uniti, a noi no. E quindi noi dobbiamo assolutamente fare di tutto per poterlo. Certo, però essere in questo mercato globale non può essere un alibi per l'Italia, per dire che dipende tutto dall'esterno. L'Italia è comunque un grande protagonista, è una delle la quinta potenza mondiale a livello economico, e quindi deve giocare la sua parte, e in qualche caso ha giocato la sua parte in maniera negativa, portando appunto con l'instabilità e con la fragilità propria del sistema italiano anche il mercato globale ad essere in difficoltà. Quindi anche noi abbiamo la nostra responsabilità. Beh, certamente sì. A me sembra di capire, o comunque io mi sono convinto, che purtroppo quando le economie vanno bene sono capaci di superare qualunque problema di carattere politico, ma quando le economie non vanno bene, la politica molte volte, come in questo caso, si dimostra o impreparata o incapace. Ecco, in questo senso l'Italia è, come dicevamo, una potenza economica. Dal profilo finanziario la borsa è rimasta sempre un po' piccola, un po' forse sottodimensionata rispetto alla realtà economica del paese. Come mai? Perché l'Italia è fatta di piccole imprese? Beh, una delle misure, direi, importanti per far capire qual è l'importanza della borsa è quella di rapportare la capitalizzazione di borsa al PIL. Naturalmente, se noi guardiamo al caso degli Stati Uniti e soprattutto dell'Inghilterra, noi vediamo che questa capitalizzazione è molto più alta. Nel caso dell'Italia ci sono momenti in cui la capitalizzazione di borsa è andata a percentuali miserevoli, 20-30% del PIL, poi è salita, adesso è ridiscesa di nuovo. Certo, noi non abbiamo grandi industrie, abbiamo piccole e medie imprese, siamo un paese di carattere prevalentemente manufatturiero, non abbiamo, voglio dire, materie prime, quindi questo è un limite. Questo comunque non vuol dire che anche un paese manifatturiero possa avere una grande importanza, però non c'è una tradizione da noi e c'è molta fatica a portare le aziende in borsa, perché l'imprenditore generalmente in Italia non ha mai amato mettere le sue carte nelle mani dei terzi. Anche perché chi paga comanda, e se si accettano dei soldi dall'esterno, poi bisogna accettare anche dei, come minimo, dei controlli sull'attività delle imprese. Beh, non dimentichiamo in definitiva com'era il paese dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè era un paese ancora agricolo col 13% della popolazione impegnata nel campo dell'agricoltura, che poi è andata diminuendo eccetera, quindi si è trasformato in paese industriale dopo gli anni 60, quindi è stato un cambiamento nella seconda metà del secolo scorso incredibile, quindi è un paese che forse ha ancora da crescere sotto il profilo della democrazia economica. Questo in fondo è anche un'opportunità, la possibilità appunto che un mercato piccolo possa crescere, possa fare meglio quel mestiere di fare la cinghia di trasmissione tra la finanza e l'economia reale, che è poi fondamentale, che ogni tanto forse manca e forse è anche un elemento che ha provocato le ultime crisi, questa volontà della finanza di fare da sola. Certo, io credo che direi in questo processo di democrazia economica assume un ruolo molto importante, e l'ha assunto anche nel passato, la stampa, l'informazione, la radio eccetera, quindi in questo senso è assolutamente importante dare dei messaggi. Cioè, il nostro è stato il famoso definito il bot people. Diciamo che piano piano il passare da titoli di Stato a forme di investimento più rischioso non può non avvenire se non attraverso un aumento della capacità di giudicare e di informazione, non solo affidandosi ai terzi, a consulenti, ma creando in se stessi questa capacità. Quindi, guardando un po' in prospettiva, adesso siamo nel pieno di un temporale, c'è qualche schiarita ogni tanto c'è qualche fulmine qualche attuazione improvviso, siamo in una situazione certamente difficile, non guardando al breve termine ma al medio termine, comunque lei resta ottimista sulla base dell'esperienza? Io senz'altro resto ottimista. Guardavo questa mattina i dati di una giornata di lavoro del 1975, avevamo il rendimento medio delle obbligazioni calcolato da Mediobanca tra l'11 e il 12%, oggi non è così. Il fatto di avere l'euro ci ha tolto dal famoso pericolo dell'inflazione, quindi sotto questo profilo per il futuro io vedo senz'altro una crescita. Una crescita anche per il paese, un paese che sembra un po' fermo, sembra un po' statico, sembra un po' conservatore, con grandi difficoltà a fare delle riforme strutturali, delle riforme sostanziali. Sì, ma è uno dei paesi più belli del mondo e purtroppo, diciamo, qualche volta diciamo ci sono gli italiani. Però gli italiani hanno anche una grande fantasia, una grande capacità, e io nei miei incontri internazionali dicevo sempre, soprattutto agli inglesi, voi avete dalla vostra parte il pragmatismo, noi abbiamo la flessibilità, e alla fine penso che tutto sommato non ci manda a fondo questa flessibilità. Bisogna forse non avere troppo questa sensazione che comunque poi si va avanti, che c'è questo stellone italiano che prima o poi ci salva, bisogna comunque darsi da fare, bisogna rimboccarsi le maniche, pensare che appunto bisogna guardare in avanti con gli occhi rivolti in avanti, senza pensare che le cose prima o poi si aggiustano comunque. Beh, naturalmente, voglio dire, la crescita avviene anche attraverso lo studio, e quindi è importante la scuola in questo senso, e io, ecco, per esempio auspicherei per il futuro che ci fosse una maggiore capacità da parte dell'autorità, dello Stato eccetera, di indirizzare i giovani verso quei settori che richiedono impiego, e voglio dire, quello che conta è lo studio. E questo è molto importante. E conta anche l'apertura internazionale. Abbiamo molti giovani che vanno all'estero a studiare e che poi magari non tornano perché all'estero si trovano meglio di quanto pensano di potersi trovare in Italia. Questo, secondo me, fa parte, voglio dire, dell'evoluzione. Abbiamo anche tanti, direi, extracomunitari, stranieri che vengono in Italia e che sostituiscono gli italiani. Non dimentichiamo mai cosa è successo nell'Ottocento con gli italiani che sono andati in America. E quindi, molto probabilmente, in questo che è un movimento di lungo periodo, molto probabilmente vedremo comunque una crescita. Ecco, ci avviamo verso la conclusione di questo simpatico dialogo con Ettore Fumagalli. Lo ricordo, una vita passata all'interno della borsa, e non possiamo non chiedergli qualche consiglio. Spesso si dice non datemi consigli, so sbagliare da solo. E sul fronte finanziario certamente i consigli sono complicati, c'è sempre l'essere prudenti, il diversificare. Ecco, ma in questa situazione, in questa particolare situazione, di fronte a ovviamente un risparmiatore che una sberla a destra e una a sinistra l'ha presa negli ultimi tempi, abbiamo visto molti titoli scendere a livelli inimmaginabili, indubbiamente come livello, soprattutto i titoli bancari. Ecco, che cosa deve fare? Ecco, non solamente i risparmiatori o i nostri clienti, ma anche noi stessi, perché in definitiva siamo uomini economici e quindi anche noi siamo costretti ovviamente ad investire le nostre disponibilità, e come tutti ci troviamo in un mare in tempesta e quindi qualche cosa si perde. Comunque è ovvio, certe direi regole di prudenza sono di carattere universale. Peraltro io ritengo, non vedo nessun rischio di insolvibilità o di default del paese, assolutamente. Il principio nominalistico rimane sempre valido, quindi 100 euro sono 100 euro e i titoli di Stato così saranno rimborsati. Nel passato, dicevo, avevamo l'inflazione e oggi invece siamo nel contesto europeo e questo ci aiuta e ci difende, per cui non dovremmo avere paura. Per quanto riguarda la parte invece più tipicamente azionaria, io sono del parere che se uno sa guardare i titoli, i bilanci, i rendimenti, tutto sommato può perdere nel breve periodo, ma nel medio periodo recupera sempre. Sono degli asset, secondo me, che oggi hanno una grande importanza. Senza dubbio io vedo ancora l'oro, senza dubbio la terra e senza dubbio l'energia, senza la quale il mondo non va avanti. Alla faccia di tutte le Robin Tax che possono essere messe. Quindi ci sono delle certezze su cui possiamo costruire, una certezza è anche guardare con ottimismo al futuro, guardare con speranza, perché il futuro sarà anche quello che noi potremo costruire. Ma guardi, questo glielo concludo dicendole quello che è stato il motto della mia vita, che è quello di credere nelle cose che uno fa con convinzione e di sperare in maniera positiva e di agire, direi, con inesauribile speranza. Questo direi è quello che mi ha sempre guidato e tutto sommato, guardando nel passato, penso che se anche il mio futuro è breve, direi possa avere le soddisfazioni che ho avuto nel passato. Grazie, ringraziamo Ettore Fumagalli di essere stato con noi questo pomeriggio e così come ringraziamo quanti ci hanno seguito. Buona domenica ancora a tutti.